Il mondo tutto, un padre conoscer de da te, vita e salvezza. Cara mia figlia, oddio, ho presso il cuor dal giubilo improvviso. Essere tua degna figlia, fece onore mio potere nel caso rio. Ora nuova vita attendo al tuo potere, così Dorilla, senza gettarmi in volto nemmeno sguardo con cui si mostri grata, se non amante, ma dal terror della veduta morte alla vita improvvisa, sorpresa fosse ancora l'anima in